qualcuno grida tu. Nell'universo immenso da qua giù sembra tutto fottutamente blu. Sdraiata a mare mi incanta crepuscolo, accanto il suo corpo fragile, psicopatico e minuscolo. Il sole sembra emerga dall'acqua, lo provo a catturare con le mani. Medito alla creazione osservando il sole con ammirazione, come se non avessi un domani. E se davvero avessero ragioni i testimoni, perseguitati ancora e lo saranno fino al giorno dei loro giorni. Zero marziani, zero misteri, tra stelle, satelliti e pianeti, sempre sole e sempre estate lo saremo fieri. Ci hai mai pensato, Noè, Darwin, bocciata all'esame d'evoluzione, in barca di rivoluzione dentro un'arca, diluvio, la tensione da uomo di non farcela. Come me, che non mi fermo, da quando il pentagì muove come afrodisiaco il G. Vuoi fare il G, ma non c'hai la G. Sorrido ubriaco, rido Itaco. In Italia la musica non suona, ogni loop che suona lo dedico a Guido. Monaco, paradisio con Arra, rimarrà bestiame, letame da sopportare. Uno sciame di persone quando al mondo non ti conosce a fondo. In sottofondo l'onda mi riporta a riva, accanto a questa signorina. Guardo stregato dall'abissativa, galleggia piano una bottiglia. Curiosa afferra, testimone di un messaggio. Com'è possibile, c'è una mia rima. Lo senti il piano? Apri la piano, lì dentro c'è di tutto, puoi non crederci, ti amo. Tutto quello che hai sempre creduto strano cade appeso e morto, fai di tutto per cambiarlo come ogni sogno nostrano. Vuoi arrivare a toccarlo, un'esplosione di colori, emozioni, sensazioni. Siamo vicini, che ci farà sentire più fuori, più vivi, come da ragazzini. Tutti, testimoni di un messaggio.